Roger, ti volevo solamente chiedere, gli ispettori di cavo sono 45, 90, 120 come multipli, se devi mettere degli ispettori di cavo in più? Io uso quella misura, poi ognuno usa la misura che vuole, però la misura che uso io da rispettare, che ho sempre rispettato io, è quella, e non ho mai avuto problemi né di stazionare, né di rientrare, né di fischiare. Poi c'è chi li usa da 30, c'è chi li usa da 40, c'è chi li usa da 90, quelle sono le misure che uso io, Anto. Di 45 o 90 o 120. Ascolta, mentre invece per il cavo di prolungamento di quel coso, di quell'apparato lì, della mascherina, era un JK8, è possibile che lo stesso cavo classico che si utilizza per i telefoni, per la telefonia a 8 pin? Sì, questo è, ma ti ho detto che ce l'ho io già pronto, non è molto lungo. Comunque ce l'ho io pronto, capito? Non ci sono problemi. Va bene, no, mi saluti a tutti. Se ce la faccio a terminare prima questo lavoro che sto facendo al computer, entro dopo cena, nel versamento, evidentemente tutti salutati, perché ce la fare tu, ce la fare se torno alla radio, non combino niente, sai dove c'è il computer, quindi devo tenere per forza aspetto che si ascolta a voi, non combino niente. Non combino niente, devo per forza concludere tutto entro domani mattina perché devo consegnarla, se no non mi danno le ferie. Quindi un saluto a tutti circolare. Avanti Gianfranco, un po' le spiegate il microfono, ascolto per 2 minuti e poi spengo. Sì, claro, ti volevo chiedere una cosa, ma se sei in fretta no, perché siccome faccio riferimento sempre al tuo segnale, come arrivi, mi sta sembrando un segnale più basso del solito, quindi forse te lo danno un'altra antenna. Comunque niente, va bene, buon lavoro Claudio, allora, ricambiati i soldi. Ok, sì, sto usando il baracchino quello piccolo con 3 watt senza nessun supplemento, perché ho acceso proprio perché ho visto la chiamata di Antonio al telefono, quindi mi sono precipitato a cercarlo, sono entrato qua. Va bene, noi saluti a tutti, QRT per me, alle prossime, ciao. Ok, ciao Claudio, non te ne mettere dubbi, non te ne metto, tu lo sai, tu mi conosci, io sono come il sole e come la luna, chiaro, limpido e chiaro, non lo so, ho fatto i setacci, i setacci sono completamente diversi, poi ho fatto la chiamata e dietro l'aiuto ho fatto questi setacci, tutto lì. Non te ne mettere dubbi, perché non le va bene, tutto lì. Ciao Claudio. Vabbè, tu puoi dire quello che vuoi, ma io rimango sempre col dubbio, perché l'esperienza che io ho su quelle radio mi sembra che sia molto, molto superiore alla tua e a qualche altro. Quindi mi sembra molto, molto strano che quella radio abbia una modulazione così chiara, anche se molto chiara non è nei miei confronti, perché è un po' troppo alta e tende un po' a trappare. Però mi sembra un po' strano, vabbè, contento tu, contento tutti, io rimango sempre con il mio dubbio perché è un mio dovere rimanere con un dubbio, non è che debba dare altre spiegazioni, rimango con il dubbio perché li ho già visti, provati, settati molto, molto prima di te, e quella modulazione non è di quella radio. Ok, Antonio Grode, per te io spengo e continuo a lavorare, ciao, a più tardi, seguici. Roger, io non entro in merito al discorso, comunque se hai fatto questo tipo di manovre ottime, stai arrivando una bomba, tanto di cappello, e non c'è problema, con qualsiasi poi radio tu stia arrivando, perché poi non è quello il discorso, a prescindere da questo, Alfa Bravo, avanti. Sì, poi l'importante in ogni caso uscire bene. Io preferisco 1000 di quale radio che una sola con l'eco o con quei preamplificatori che ti disturbano tutto, perché ripeto, sono la radio per chi ci sta ore e ore e ore attaccato, deve essere anche una cosa piacevole. E se ascolti l'eco dopo un paio di minuti devi per forza spegnere, purtroppo, perché così riprendi il portatore. ok, Alfa Bravo, va. Ok, vabbè. Io logicamente non è che sono qui, diciamo, né per fare competizioni, né per diciamo dimostrare nessuna niente. È soltanto una passione come tanti altri che hanno dietro, diciamo, una tappa e la passione sempre, diciamo, a fare dei piccoli accorgimenti e niente, tutto lì, capito? Tutto lì, ognuno cerca di fare il proprio meglio. Da parte mia non devo fare né competizioni né dimostrarmi a nessuno di superiorità né niente. Mi piace la 27, è una passione che mi porto da circa 20 anni. Ho smesso sulla 27, poi ho ripreso, insomma, come ognuno ogni tanto, diciamo, questo ce lo fa in modulazione di peso, secondo te, ma a fine mira tutto lì, diciamo, sempre al principio, diciamo, non è il segnale, non è relativo, l'importante, diciamo, è la modulazione e la radio, diciamo, farsi sentire. Ok, riprendi Antonio Grotti. Di Ruggero, Campa di Ruggero, ma ti ripeto, la bellezza di avere comunque un canale dove le modulazioni sono comunque tutte simili, intese, cioè che non abbiano comunque l'eco, io non lo sopporto lo stesso, come diceva Alfa Bravo. Una bella radio chiara, sicuramente con un minimo di amplificazione, è piacevole da sentire. Il fatto di dover giocare sempre col volume, soprattutto quando sei in cuffia, perché ti fa venire il mal di testa, senti uno basso, uno alto, cioè quando è troppo eterogenea la comunicazione sul canale è fastidiosa. Io ti faccio i miei complimenti per come stai uscendo, né più nemmeno come li faccio Alfa Bravo, chiaramente per le condizioni in cui si trova, nel senso per il tipo di antenna e di supporto tecnico che sta utilizzando. Assolutamente, sono concorde con quello che hai detto. Vai avanti, Alfa Bravo. Sì, andrò, per me va bene, ripeto. C'è il fossero. Sì. È la mia antenna, chiaramente, è un'antenna che non è certo la matura 1 che c'era prima. Da lì era tutta un'altra cosa, però non puoi avere, come si dice, la cuba piena, la moglie ubriaca. Devi sempre fare dei compromessi, quindi ci si accontenta, dato anche che in ogni caso qua funziona lo stesso. Tutto, arrivo anche a Porta Torre, ti ci sono a cuore. Ok, Alfa Bravo, evidentemente magari a quanto ho capito non hai l'antenna, diciamo adeguata. E vabbè, diciamo l'importante è farsi sentire, tutto lì, poi pian piano uno i suoi piccoli accorgimenti, con la sua esperienza, con un consiglio, con l'altro, piano piano, diciamo, riesce ad avanzare e fare piccoli accorgimenti. Ok, con tutto ciò io vi saluto, perché smetto un attimino, stavo terminando una cosettina. Ok, saluto a Fabrano, ben ascoltato dalla premiera, magari si ascolta tutte le prossime. Ciao Antonio Corte, noi ogni tanto ci ascoltiamo, dai. Ciao a tutti, alle prossime, le prime Corte. Roger, Sandro, ben sentito, ben ascoltato, 73, ci sentiamo alle prossime, dai, se coincide, con molto piacere. Ok, ciao ad Alessandro, buona serata, c'è un break avanti. Sì, Leoncino, buonasera, un pochettino di più di radio se possibile. Non so se sia da me o se dipende da te, però si capisce, ma è molto bassa. Confermi, Anto. Roger, assolutamente basso di radio. Renci, cosa hai fatto? Rispetto a stasera sei basso. Un attimino in quel Rix che c'ho, un attimino in bianco che c'ho una bassa. Scusate. Come basso? Ben bassa? Eh sì, abbastanza. La radio e non il segnale, la radio è bassa. No, non è l'antenna, è la radio, controllate lo spinotto, il pulsante, le stesse cose, dai. se c'è un potenziometro magari sta rifiutando, insomma tutte quelle cose che fanno questi scherzi. Buona vedere, ora, ora, prova. Un pochettino aumentato. Un pochettino aumentato. Va bene, dai, guarda, vedere adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E per me adesso va bene. Adesso non va più bene perché non è più. Solo portante. Appa. Ora, prova. Ora, prova. Ciao Claudietto, buonasera. Ma questi apparati CB sono così complicati, che è così complesso, diciamo, aggiustarle alla radio. Buonasera, ecco, buonasera. Un punto di cortesia, grazie. Sì, io forse ti abbiamo confuso per Claudio. Dalla preamplificazione. Come segnale 8 qua, la radio un po' cupa, mi sembra, così, a prima ascolto. Buonasera, Antonio Barracuda. Come la radio, troppo satura da parte tua? No, più che satura è cupa, mi sembra cupa, però può essere anche la tua voce, la compressibilità, ripeto, è totale comunque. Però oggi sono un pochettino rauco. Aspetta, scusami un attimo, c'ho un po' di mal di gola e... Sicuramente mi ha fatto male l'aria condizionata oggi. Guarda adesso, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, a certa distanza. Ah sì, ora va bene, adesso va bene. Comunque se c'è mal di gola è anche normale che sia un po' cupa. L'ho passato anch'io lo stesso e cioè, sembrava un orco quasi. Ok, vediamo se riusciamo a tirare il controllo anche lui. Scusami un attimo, il tuo nome è attivo, non riesco a focalizzare. Alfa Bravo, AB, Franco. Buonasera Franco, Alfa Bravo, ben sentito. Sassari? Conferma Sassari. Perché qui abbiamo Santiago di 5, una radio di 3, molto basso. Adesso dipende da che zona sei. Ossi, Ossilandia, zona alta. Tratto. Sì. Sì, quindi è normale, vabbè, Ossia è normale, non sei molto vicino, dai, io sono a Sassari, nella parte bassa, quindi... È già un miracolo che mi senti. Allora va bene così, a parte sentirsi. Così ti ho ricambiato il controllo. Buonasera anche a te, signor Grobbe. È ben sentito se sei Antonio. Antonio, di Grobbe ce n'è uno, tutti gli altri c'è nessuno. Ben sentito, ben ascoltato, 7351 e ben rientrato dal trabacco, dai. Meglia, niente, così. Ma però non c'è un segnale più forte oggi. No, non so dire, non credo, perché sono nel QTH non mio, quindi comunque sto usando il baracchino piccolo, dai. No, sto uscendo molto bene. Venerdì 26 alle 21 in paese c'è un ragazzo di Ossi che è veramente bravo a suonare il piano, Beethoven, Mozart e compagnia bella, ore 21 ingresso libero, venerdì 26 ed è in 6500 abitanti l'unico pianista in paese, è veramente bravo, infatti vado a vederlo, sono curioso. Invece 27 sabato, sempre nel periodo di agosto, c'è Music Art, questa festa che fanno in paese con tantissimi artisti, per informare la tua pollicino, cambio. Ma di Roger, ti ringrazio, sembrava l'elenco dei torronai, è presente i torronai che hanno il calendario con tutte le feste. Io ti ringrazio di questo perché tra l'altro spero di condividere con te la gioia di queste manifestazioni, assolutamente. E adesso la porterò a conoscenza e poi ti farò sapere nel caso. Avanti Alfa Bravo. Scusate un attimo, attento Antonio Grote. Farogliere, avanti Giuseppe, ti sei abbassato di radio rispetto a come ti ho sentito sul 5. Guarda, ti sei abbassato. Un qualità della radio, però ti sto dicendo, se prima eri 8-9 adesso sei un 5, capito? Non so perché, qua, non te lo so spiegare. Non so cosa è successo e cosa può essere, hai capito? Guarda. Se hai parlato nell'ultimo pezzettino non si è sentito niente. È possibile che abbia toccato un mic again? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, a tu. Allora, adesso sì, è andato, cosa stavi facendo? Cosa stavi girando? Quella delle mic again. Ma ti dico una cosa, è possibile che ce l'abbia un pochettino incrostato, sfruttaci qualcosa per pulire i contatti ed è possibile che ti rialzi. Adesso prova a metterlo al massimo. Guarda. Stai parlando anche alla fine della cosa, della portante? No, negativo. È inutile, cioè non sto guardando il segnale, io non te lo posso dare, ti sto dicendo la radio ce l'avevi leggermente più alta, leggermente, sostanzialmente più alta stasera, poi ti ripeto, chiedi pure agli altri. Oh, non lo so, adesso vediamo un po' cosa. Guarda, ora prova. Adesso sei quasi a zero. Toglimi una curiosità, ma c'hai un mic amplificato? No, negativo, normale. Che non sia problema di batterie. Sei strano, adesso ti sei abbassato e sei arrivato quasi a zero come radio. Brecco. Registrato il break. Rivieni avanti, Limci. Guarda. Attivo, negativo. Guardalo un pochettino, nel frattempo facciamo entrare il break con la buonasera. Avanti, break. Buonasera, sono Roberto. Sera Roberto, da che zona stai modulando? Lecce. Lecce. Ben sentito comunque Roberto, non so se ho capito bene la zona di modulazione, da questa parte comunque Antonio Grotte, ben sentito, ben ascoltato per la primiera 7351, avanti di nuovo per gli amici che sono in ruota, che sono Antonello Barracuda, da Sierra abbiamo Alfa Bravo, ti mando avanti Antonello da Ossi, avanti Antonello. Buonasera Roberto, ben sentito per la prima volta. Qui siete sovramodulati, Roberto un attimino, vai avanti di nuovo Antonello. Buonasera, mi hai sentito la Lecce? Roberto, riesci a copiare Antonello? Sì, lo copio. Perdonami, mi sembra troppo, sei di Lecce ma non sei a Lecce. Sì, sono a Lecce. Mi sembra un po' strano, stai arrivando con un segnale, o meglio un segnale radio troppo buono per essere a Lecce. Lineare attaccato. Avrei anche un lineare attaccato, ma io sto uscendo con 4 watt, non so come ci possa arrivare a Lecce con 4 watt. Attenzione Roberto. Avanti. Sto dicendo, tu stai anche attaccando, avrei anche una scarpetta attaccata, ma qua non ci ha attaccato niente. Quindi a meno che non abbia una direttiva, ma a prendermi con 4 watt mi sembra strano. Sicuramente abbiamo una buona propagazione. Di farsi un giro. Perdonami di sentire, però ci piace scherzare in questo canale, prendiamo la cosa come uno scherzo, dai. Comunque ben sentito, ben ascoltato, avanti l'altro break. Alfa Bravo. Sì, lo sento bene anch'io. Io sto scendendo come stai, con un antennino e lo sento lo stesso, ne hai visto, poi vanno a mettere tante cose, mentre invece ci serva in diretta, in Italia, questo non c'è bisogno di niente, tanto bastano apparecchiette, va per tutto, è meglio al telefono. Ma infatti mi sembra strano, io credo che Roberto senza offesa stia scherzando, o a meno che non abbia un ripetitore, un ponte radio qua in Sardegna. Io sono Ausilio. Ciao Gianni, buonasera, avanti Antonio Bellica, c'è Gianni. Ciao anche a tutti gli altri. Avanti l'amico che sta chiamando Pomponio. Avanti. Stivo, avanti. avanti l'amico che sta chiamando Pomponio. Chiami era. Negativo, negativo, non sento l'entrata. Roberto, riprendi, dai. Alessio, posso già arrivo a Sassari? Sate con 5 Gianni, qua. Oggi bene, ho fatto fatti. Avanti, Ussi, buonasera. Antonello Barracuda, avanti. Ecco. Avanti, Patrì. Ciao, buonasera. Avete riconosciuto la modulazione da dove veniva? Ho sentito un certo Roberto. Mi sa che eravate voi perché vi state portando lo stesso innesco, eh. Non vorrei dirlo, ma... Signor Grod, allora io vi volevo far sapere che qui a casa mia ci sono dei pugliesi e volevo farle vedere come si... Prego, parli. C'è. Prego, saluti il signor Grod. Buonasera, Grod. Buonasera a lei, signor Roberto. Si sentiva troppo che il segnale era troppo potente, a meno che non avesse un ponte radio, ma non avesse un ponte, abbiamoci detto, ci mancherebbe. Comunque ben sentito, ben entrato nel canale 10 in questa ruota di Sierra a Sierra. Avanti Roberto. Salta e poi va via. Roger, ben sentito, me l'ha ascoltato, deve essere la prima. Non so se sia un CB, mi sembra, da come stavo usando la radio non credo, dalla poca maestria, comunque sempre gradito assolutamente un ospite del Barracuda. Avanti Antonello Pomponio. Positivo. Come andiamo, come andiamo? E c'è tutto niente. Buonasera a tutti. Faccia Luca, ciucu ciucu, si è fatto oggi, no, non ho fatto ancora ciucu ciucu io. Un po' di ordine, ben sentito, ben ascoltato Luca, sei in compagnia di Antonello Barracuda, Antonello Pomponio, Alfa Bravo e se non sbaglio ci dovrebbe essere anche Giuseppe Doncino. Avanti Luca. Ok, buonasera a tutti. Ben sentito Luca, avanti Barracuda. Mi negativo, pensavo volessi entrare a far parte del QSO. Alfa Bravo. Sì, dimmi Anto. Negativo, volevo accendere un attimino la discussione, ma vedo che siete tutti quanti un po' ritirati in QRX, state aspettando. Sì, io mi scuso, ma stavo, sono impegnato col PC e sto anch'io facendo dei piccoli lavoretti. Quindi chiedo permesso di rimanere in ascolto, se non chiamato specificatamente non rispondo. Ciao Antonello, ciao Alessio, Antonello Alessio, poi mi confondo sempre. Riprenditela tu, Anto, gestisci che sei bravo la ruota. Ma Roger, ti ringrazio, non c'è problema. Buon lavoro. Giuseppe Lovicino, vediamo un attimino se si è riuscito a rialzare la radio. Luca, come mai non sei uscito? Come non sono uscito? Sono uscito a come? Sono uscito... Sono appena rientrato. Stavo appena dicendo come stai uscendo bene di radio, hai avuto una passata, una manetta, un'accelerata subito. Tu, adesso stai abbasso. Aspetta, adesso meglio qua. Ora, 1, 2, 3, prova. Accelera un pochettino. 1, 2, 3, prova. Rimani così, dai. Magari come l'hai messo prima, però la modulazione sembrava diversa. Antonello Pomponio. Dimmi, caro. Roger, consiglio di questo canale, come avevamo detto, è quello di, gentilmente, di non usare camere eco, ma per un rispetto delle orecchie degli altri e per una maggiore omogeneità della modulazione, piacevole da ascoltare. Cosa ne pensi? Ma non lo so, per me ognuno deve usare ciò che vuole, la verità, in tutti i canali, non è che... Naturalmente ecco, lo sai che ti fa altro cacciacco, però come l'oggetto fino all'altronde, io ho quella 4 tonni che vabbè non è che li uso sempre, ma che altro ogni tanto. Adesso mi devo rinforzare, devo cambiare antenna, perché sono andato in guerra e bisogna che mi... adesso devo telefonare a resumare il coso del 600 watt e portarmi la bancarla, cambia tutto, mi riesco molto più forte di prima. Se sono piccolo piccolo adesso. Piccolo e ben nero. Comunque il problema è di poter usare sicuramente sui canali, uno non paga la concessione per 39 canali o tutti quelli che gli altri gli escludono, non si possono dettare regole su un canale, però secondo me se ci dettiamo delle regole di buon comportamento, che sono quelle di evitare un linguaggio scurrile e evitare cose che comunque possono dare fastidio al prossimo, quali camere eco che sono e vanno benissimo sul canale 45, tant'è vero che nel momento in cui giri sul canale 45 ti puoi aspettare le camere eco, è giusto che sia così. Su alcuni canali è bene avere un attimino delle regole, ma nel rispetto delle persone che stanno ascoltando e che hanno piacere di stare in ascolto. Vabbè, ma è che la verità io trovo una cosa giusta. Secondo me, perché se uno c'ha un Saturn Echo non è che devo usare il Saturn Echo perché magari c'è con l'Echo, quello che c'è. Più che altro è una cosa, una troppo obbligatoria, la verità. Secondo me, poi non lo so, la regola che non è che va di molto bene, la verità è ricchia, comunque, se per te va bene, si accontano a tutti. Ma mi sembra il bus, mi sembra stasera. Quando mi ha fatto la finanziaria qua, che era d'accordo per usare l'eco, usiamo l'eco, che non d'accordo per usare l'eco, non usa l'eco, non mi faccio nessuno. Secondo me, se no è inutile fare una, ho capito, non si iscriverebbe nessuno all'associazione. Se uno usa l'eco, usa, ma non è che mi... Per me è indifferente, la verità. Naturalmente non usano per tutta la sera, no, perché vai giù per bancarlo. Usano per 10 minuti, 4 ore, quello che è, non è che dia fastidio. Qualsiasi eco che usa uno, come non c'è il bip. Poi non lo so, più bisogna dalla... Cosa posso dire? La parola è fazione, accettarlo oppure no, una cosa del genere. Scusate un attimo, faccio Antonio Marco dopo un attimo di bianco, ci sentiamo dopo, buon divertimento. Grazie Antonio, perché volevo sentire anche il tuo parere, ma capisco che hai gli ospiti a casa. No, non ti preoccupare, gli ospiti sono andati via, dimmi, no, non vi ho seguito, avanti la situazione. Io stavo facendo una proposta, non voleva essere un obbligo per nessuno, chiedo scusa se mi sono espresso male, ma secondo me quando si inizia a essere in molti, questa è una cosa positiva, però onde evitare che si possano creare problemi o che alla modulazione e all'ascolto degli altri, che deve essere esclusivamente piacevole stare, perché deve essere esclusivamente piacevole stare al baracchino, bisognerebbe innanzitutto evitare di avere un atteggiamento scurrile, quindi vorrei che chiunque modulasse su questo canale, vorrei e sto chiedendo la cortesia, poi il canale non è mio, non è il canale dell'associazione che lo sta prendendo come punto di riferimento, ognuno può fare assolutamente quello che vuole, però se vuole quantomeno fare un QSO con me, posso dire almeno questo, Antonello Pomponi, io gradirei che si avesse un atteggiamento diverso, un atteggiamento vuol dire meno scurrile, perché ci sono anche dei QTH dove ci sono dei bambini e la radio può essere tenuta anche a un volume abbastanza alto e da questi bambini può essere sentito, non è il caso che questo avvenga, questo l'ho già detto i giorni passati. Dopodiché anche l'eco è una questione di rispetto per chi porta le cuffie e si trova in cuffia delle modulazioni eterogenee, cioè chi è basso, chi è alto e chi ti dà fastidio sono quelli che hanno l'eco alto, punto. Ma alla fine, scusami Anto, in poche parole cosa è successo? Non è successo niente, io sto solamente dicendo che bisognerebbe avere maggiori regole, onde evitare che poi si possano creare delle situazioni spiacevoli, punto. Penso che diciamo questo discorso non si dovrebbe neanche affrontare perché da un minimo di rispetto giustamente un po' per tutti ci vuole, ecco. Dunque tocca a ognuno di noi, diciamo, essere tranquilli e educati, tutto lì. Io problemi non ne ho. Io capisco anche che io sto chiedendo, non sto chiedendo di eliminare l'eco, sto dicendo esclusivamente che su questo canale è gradito il non utilizzo dell'eco e il non utilizzo di un linguaggio scurrile, solo questo. Va bene, mi lascio al vostro alla vostra parlantina. Vai, ci sentiamo tra una mezz'oretta. Vai, faccio un attimo di bianco allora. Buon proseguimento. I bussi. Tanto tu stai riprendendo stasera Gianni che mi ha rinchiassato dietro, no? Insomma, basta, non ti crede nessuno, mi sono messo in cose, naturalmente ho sbagliato Gianni stasera a parlare con me, adesso dice palle, ho dato una fuori a noi, la verità è me. Si è incazzato per nulla, si è incazzato, tutto lì. Però, beh, non sai come è fatto quello che avevo tenuto, si trasferisce da una parte all'altra. Non è detto che fosse di là, che può essere magari a usi artistici, quello che è, ma lui è fatto così, o non ci possiamo fare nulla, no? Ci dobbiamo tenere così, se vogliamo coltivare un po' di gente, bisognerà fare arrivare anche i faulaggi di Zeraghito. Perché no? Dopodiché li correggiamo, no? Registrato comunque il break, dopo ti rispondo Antonio, avanti il break. E buonasera a tutti, ci buttano da questa parte. Non so chi sta acceso adesso, non so chi tutto ci sia in ascolto, comunque saluto tutti in generale, dai, tutti quelli che ci sono in ascolto. Poi mi dici chi c'è a ruota perché non ho acceso adesso. Ma ben sentito Gigi Vulcano, ben ascoltato, 7351 da questa parte del Grod, sei in compagnia di Antonello Pomponio, Antonello Barracuda che è un attimino in QRX, dopodiché ci dovrebbe essere Alfa Bravo, che lo stesso in QRX un attimino sta ascoltando, e Leoncino, che però non ho più sentito perché ha avuto un attimino problemi con la radio. Poi ho sentito anche Gianni Doppio Room, che però era un attimino lontano e quindi non ho più sentito. Rilancio per Antonello Pomponio che fa girare, dai. Perdonami, dopodiché anche Luca del Monte. Avanti, scusami Luca, avanti Pomponio. Io ok, non c'è problema, comunque non lo so, io cosa a Giuseppe lo faccio inteso, si trova solo a Luigi che è entrato e basta, poi Giuseppe è andato a verità, se c'è la prima magari poi non lo so, se sono lo rilascio se c'è, e non c'è problema, comunque Rix a Tonello, lui non ce ne stanno, vediamo se Giuseppe ci sei, no non c'è. Quindi, tanto ripigliate un altro fai girare, va. Un attimino che ho una bassa, perdonatemi. Devo salutare a Gigino Vulcano. Ciao Lucarie, dai, io non sapevo che ci fosse, adesso ho capito che sei in ruota, dai, salutando a tutti quanti. Salutando a tutti quanti, e beh, con poco cosa mi racconti, come va oggi, meglio ti senti, l'altro giorno se mangi pesante, c'è pesantezza di stomaco, se mangi quello col sugo, col peperoncino, ti grigia qualcosa, oggi come te la passi? Oggi me la passo bene io, non preoccuparti, non mi spiega niente a me, non preoccuparti, però quella sera è sbagliato, e me la sono segnata. Lì. Ma detto sarà tanto freddo, non preoccuparti. Quindi no, non voglio fare politica, non frega più niente, però non c'è bisogno di fare c'è battute del genere, non sbatte proprio niente ormai. Se ho piatto un'incantatura non è andata, sto veramente male. E quindi no, non le accetto scritte del genere, la verità, non le accetto. Ma ormai già riconosco tutti, però sono trovato un bel male, non me lo aspettavo da te veramente, non lo so cosa ti ha preso quella sera e non me ne frega proprio niente. La cosa è chiusa qui, non la voglio più sentire. Chiuso il discorso. Io comunque sono molto forte di carattere, e ce la faccio con le baracche da pacchette cazzate, non esiste. Quindi rientro, parlo tranquillamente con tutti, non me ne frega proprio niente. Sono una 27, ci chiamano 27, poi se uno mi attacca. Poi ci sarà un momento fortuno, niente di... Tutti hanno i punti deboli, il discorso è quello. Quindi se non lo so. Quel giorno mi è trovato male e non mi sono neanche incazzato, la verità, però mi sono neanche incazzato. sono disincantato guai. Ma non so più, io di cui non avevo fatto più niente. Una volta mi incantavo, ma ormai li conoscono tutti e ci sono abbastanza di 34 anni. Quindi ho già difetti suoi, esterni, interni, quello che è. E ti ritiene, il discorso è quello. Il caparoglio, ma io non già identificato, era una cosa scherzosa che si sta così, ma era una cosa, ma pensavo che fosse già chiusa questa faccenda, dai. No, era riferito l'altro giorno, stavamo mangiando di mangiare, di cose, adesso la pasta così, la pasta, insomma, era un diritto così, e cosa, era riferito a quello, no, se, quello che era già bello quasi dimenticato, ma quello era uno scherzo, mi ha detto, non te la prese, io pensavo che era acqua passata ormai, era una battuta così scherzosa, mi è venuta così, ma era uno scherzo che poi, lo so, cioè era, mi è venuta al momento così, ma era uno scherzo, e poi sono reso conto che era uno scherzo pesante, era una battuta pesante, e sono reso conto dopo, comunque dai, no, è quello dai, per me, pensavo che fosse già, ma mi sono permesso perché conoscendo, mi capisco, conoscendo, comunque era acqua passata quella, no. Non battiamo mai diciamo, il martello sull'incudine, capito, perché poi fa male. È acqua passata quella, non è incudine. È una cosa, guarda, non detta col cuore, ma detta proprio scherzosamente, lo so. È una cosa che è uscita così che capito, che tu già lo sai che tu a me senti, no, a volte non è neanche da me, però mi è venuta, sapendo che state alle 7, mi è venuta così, mi è venuta una cosa spontanea, non so come, capito, però ormai la potenza, ormai non la potevo tirare indietro, capito, ma comunque è qua passata, non ti preoccupare, tu lo sai che io ti voglio bene tanto, Antonello, con voi, dai, acqua passata, non ne parliamo più di queste cose che no, che è acqua passata. Non ho trovato giù lui e non te lo ripeto, quindi hai capito cosa ti voglio dire, ognuno c'è più chi sua in famiglia, se uno va dove deve andare a scappare all'interno di tutti, era 27, sta tranquillo, non sarebbe più nessuno. È così, ognuno c'è per i suoi e quindi cioè dentro la palacchina mi danno fastidio, dentro di persona guarda ti posso anche dire in faccia, non c'è nessun problema perché sono fatto così, però la palacchina mi dà un po' di fastidio, una cosa del genere, ci sono già passato e grazie a Dio quelli che hanno fatto una tutta del genere, ti giuro, senza neanche fare niente io, perché non sono di quelli, io sono i primi, sono spariti da soli, quelli che hanno fatto la sua prima sono spariti da soli di TCB, perché hanno fatto casino, hanno fatto un sacco di cose e si sono trovati che nessuno si cagava più, il discorso è quello, parti da uno, parti poi vanno battuto all'altro e cose del genere, siccome le cose, ognuno le cose sue se le tirano a parte e quindi non è che vada bene a dire la baracchino, perché la gente ascolta e poi la gente giudica anche lui, il discorso è quello lì, comunque chiuso il discorso, non lo voglio più sapere, penso che ti sia servito di lezione, capito, perché dopo c'è un sacco di gente che ha parlato in ascolto e giudica anche magari le cazzate, il discorso è quello, e quindi chiuso tutto, ha fatto i pigni. Ebreco? Avanti a tu. Di Roger, ma Gigi, ma cos'è sempre Gigi, supermercato aperto? No, c'è il supermercato, c'è il bar, c'è aperto, capito, perché ho passato ancora per quello, per il Gigi. K, no, non sei Gigi Vulcano, assolutamente, cioè scherzo, sono abituato a sentirti con una modulazione più mascola di questa. Sì, ma qua è tutto a zero, che ha passato il Gigi, ha passato 4 fatti, ha passato anche il Gigi, capito, Antonio. Non diamo fastidio a nessuno, dai, capito? Non diamo fastidio a nessuno del mondo, dai. Già da questo si vede quanto sei signore, devo dire la verità. Il rispetto del prossimo secondo me sta alla base. C'è molta gente che assolutamente se ne frega, pompa e spegne le luci altro che il negozio di fronte, della casa di fronte. E cos'è che volevo dirti? Ma è di quelle famose salsicce? Famose salsicce, ne è rimasto un laccio, se lo metti, 7 kg ce n'è un laccio, mangiato buone, ultime, stupende, meravigliose, ti dico meravigliose, sono di buone, anche le domani me l'ho mangiata fredde, fredde, mi senza scaldare me l'ho mangiata le domani. Ma no, ma non avevi fatto anche quelle da mettere a seccare? No, quelle le faccio d'inverno, d'inverno faccio quelle per seccare, capito? Le metto per provvista, dai, le faccio d'inverno quelle. Scusate un attimo, sul 10, prego. Risolto, ti dico solamente questo, fermo così, mettici la colla, tutto quello che hai fatto prima, cancellalo, vai benissimo così, adesso sì, di nuovo come prima. Capa, Antonello. Dimmi. Come mi ascolti adesso? Bene. Com'è il segnale? 5 con il terminatore naturalmente, con l'altro sei più forte. Ehi, devi venire qua un attimo a casa, devo far vedere una cosa, hai capito che mi hanno dato stasera che sono sceso giù a Sorso e compare mio fratello e ti faccio vedere questo apparecchio che sto usando. Ma cos'era successo? Cos'era successo? C'era un pulsante che era fuori in frequenza, capito? Abbiamo messo a posto, adesso sta andando bene. Andando benissimo, tieni così che è una bomba come si è entrato stasera, assolutamente. Ok, grazie, Grotter. Antone, ci sei? Sì, sono qua, sono qua. Passa domani a casa, non c'è problema. E così ti controllo quella cosa, poi ci andiamo giù e ti pigliate il palo a dove ci sei. Tanto devo andare a tagliare il palo io, quindi per me. E ti piglio un pezzo di palo tu, così sei già pronto. Ehi, vabbè, ascolta, però io domani devo prendere mia nipote a casa di mia cognata. Io mi posso avvicinare verso a casa tua verso le 11, hai capito? Sì, va bene, non c'è problema. Tranquillo, tranquillo. Avvicinati verso le 11, non c'è problema. Portati la mola appresso, Giuseppe, così tagliamo dei pali. E quello che ti serve te lo porti via. Io mola non ne ho, Andre, non ne ho mola. Bisogna chiederla per forza a un amico nostro e se ce la presta. Se no bisogna chiedere a qualcun altro, non lo so. Che cazzo, io pensavo ce l'avevi detto, mi hai detto che ce l'avevi detto. Mi veniva dal corpo a chiedere la cosa. E al corpo bisogna chiederla, hai capito? Sono 4 giorni che non lo sento, per me quello non è stato, perché non è possibile, quello abbiamo incontrato qualche ragazzina, eravamo restato. Vabbè dai, comunque Antonei, poi io domani sera devo scendere anche giù, già sento quale posto devo scendere, dai, che mi ha confermato la questione. Oh Giuseppe, quella roba lì, di quel posto lì, di quella persona lì. Ciao. Avanti, combo. Ok, ciao, vabbè. Tu la mola ce l'hai, tu, la mola è stata piccolina. Tipo si era appena staccata proprio tagliando un palo, erano di quelle a Goyama che non serviva a niente, ma 15 euro costa mia una mola. Non so cosa 15 euro la mola, il problema è che in questo momento non ce la prendo. E quindi io ho la mola grande, ne costa 50, c'è un disco che era 90, figurati. Non la posso portare la mola 90 giù in campagna per tagliare un palo da un pollice un quarto. Io la mola ce l'ho, il discorso è che è grossa, è grande, ti taglia un tubo da 5-6 pollici, quello che è, perché è molto grossa, ma pesa 5 kg con la mola, figurati tu. È un disco grande. Vabbè dai, signori, vi saluto, dai, e ci sentiamo alle 20 più tardi, dai. Ok, dai, rimango in quelli X io. Roger, ben sentito, buon quelli X. Gigi, ma quando è che finiscono le ferie? Finiscono, allora, domani mattina devo andare a caricare un rimorchio e sono le cose da caricare. E poi è tutto il giorno in ferie, attenzione, capo, ieri e oggi sono in ferie. E poi rientro martedì devo rientrare. Mi abbiamo fatto stamattina, mi sono andato questa volta a cortesia e rientro martedì dopo. Padre Roger, dai, se coincide ho piacere di di fare carica caffeina, che intanto dovrei essere zona Predanieza domani mattina. Non lo so, ma è a che ora? Intanto se ci sentiamo, se sei alla radio ci sentiamo al baracco, dai. È pozioso, se portavo però domani, spero che domani venerdì, sabato e domenica. Adesso vediamo un po' se portarlo, perché non l'ho tolto al caso. Roger. Luca, riprendi, scusa, non voleva essere intenzionale smettermi in parcheggio. Avanti, Luca. Computer Luca. Ehi, prendi. Era Antonetto. Dimmi. No, niente, non sento Luca, lo sto rilanciando, ma forse l'abbiamo lanciato troppo in parcheggio. Antonello, ascolta, dimmi come finisce un attimino il tuo numero di telefono, che mi serve una cortesia e ti devo fare una passa. 340-92-93-210, non so le padrate, conosco, figurati tu. 40-93-92. Importante facendo. 340-92-93-210. Potevo ricordarmi il numero di telefono, io. La verità è che si è spaccato il telefono e mi ha cancellato tutti i numeri di telefono. Ti sto chiamando adesso. Scusate un attimino, quel range per me. Sì, l'ho sentita, sì. Non può se c'è, mi sento che c'è Barracuda, Antonello Aussi. C'è tanto, meglio di sole, non ce l'ho stesso. Il mio cino non c'è. Porca miseria, ma qua sinceramente scusami, ho sbagliato, non so cosa dirti, guarda, no, veramente, scusi, io non lo dico, scusando la parola, ma fanno proprio queste storie, proprio te ne fanno scendere i coglioni a terra, e non me ne vergogno di dirlo, porca miseria. Lo so, purtroppo è così. A volte trovo la persona che è forte di carattere, ha avuto un debole. Per rispondere, magari in modo, non so come ci sa lui. Io sono stato male tutta la mattina, non voglio dire, ma adesso sono in Egitto e basta. Perché devo vincere gli altri, devo vincere. Sono grosso e vaccinato. Perché devo fuggire io? Fuggo con gli altri adesso. Non mi frega proprio niente. Poi sinceramente guarda, non ho più parole, per carità, la verità, non ho più parole. E niente, penso che la situazione che con un pochettino di sale in zucchero si risolve, non siamo così stupidi, bisogna arrendersi, quella è la cosa bella, e così seduto lì aspettando che qualcuno chiamasse. Io? Vabbè sì. Mi stavo mangiando un budino la testa. Prima ci ho bevuto ho cenato, ho bevuto la birretta, ok. Poi il fiato mi sono pigliato uno, ho mangiato un budino e ho detto vediamo che se c'è qualcuno che entra a quest'ora. E si è apparso il zucchero male. Se no non ce l'hanno col cane. Perfetto. E Simona come sta? Simona è tranquilla. Grazie a Dio. Cos'è a nanna è? O sta guardando il televisore? Il televisore sta guardando. Già va bene, dai. E niente di particolare. Fatto qua, quella storia è successa ieri o avantieri, no, avantieri. E da avantieri a Claudio non l'ho più sentito, porca miseria. Non va bene questa storia, Quello che c'era quando sei entrato tu stasera. Mezz'ora fa c'era. Forse un'oretta prima c'era. Io prima gli sono sceso giù, ho provato a fare la pisciare, cosa del genere, quindi un'oretta fa c'era, sì. Mi ha telefonato. 5 secondi e poi ha aperto il grido e è sparito. A me a casa è venuto il nipote di Patrizia, da Lecce. E noi facciamo uno scherzo ad Antonio, ma la edizione a vedere se non la. Sono memorizzato, per gira, finché ha scoperto l'inghippo, là, non sono riuscito a fregarlo. Beh, logico, come fai a fregarlo? Forse stato in macchina, sì, ma se ne stato in pizza non freghino. E quando ha passato il micigame, aspetto la 12.30, poi ha passato il microfono, ho cercato un po' di camuffare la modulazione, ma... E lei sempre lì, c'è qualcosa che non va, non è possibile, vedi come è possibile qua trovati che ti arrivo. Sono già facendo le operazioni di matematica, capito? Se arriva il risultato, maledizione. Hai visto, vai. Signori. E quindi come ti va tutto a posto, Ossi? Tutto bene, sì? Sei in ferie adesso o no? No, noi le ferie, Antonello, dove sono io non ce n'è. Le ferie le prendi quando te lo dicono loro, non quando, diciamo, tra virgolette, decidi tu. Assolutamente no. Oggi ho lavorato 10 ore di fila senza fermarti, in piedi per 10 ore, infatti ho le gambe a tremarella e sono un pochettino incazzolato e così dai, di umore non sono stato tranquillo. E niente di particolare, c'è un po' di caldo, Patrizia è così, Paoletta già sta bene, e niente, si continua a soffrire, dai, tutto lì. Comunque un giorno organizziamo e venite a casa a mangiare. Sì, io non ho ancora, mi è rimasto, non sai, mi è rimasto un sacco di roba da quel giorno a me, al limite mangiamo qua, cosa è a casa tua. Mi è rimasto un po' di roba da quel giorno. Ho conservato, lei mi ha mai mangiato, ha detto facciamo un pranzo di nuovo e se la biglietta poi. Non preoccupate per quello. Poi lì mi devo, un giorno a te, io me ne vado, ha detto vale mia sorella, dove sono a Ussi, che sono cipili a Ussi, li conosco, e meno ti diventi un pochettino, e ridi. E queste persone, gli apparati ce l'avranno ancora? Sì, che ce l'hanno ancora. Gianni ce l'ha ancora, c'era Gianni di Ussi, c'era mio cognato ancora il Palantino, c'è un 40 canali, che sulla figura del tu, sono gente di conduttori. C'è ancora la casa sua. Poi c'è Andrea c'è anche 2009, come quello che dicevo io, che l'hai visto, ce l'ha buttato lì. C'è solo Cibili a Ussi, è pieno. Poi Franco lo vedo sempre fatto ogni tanto, fa i semafori, quindi non so, mi sembra che Franco ci aveva un salto negro, se non mi ricordo male, la verità. Lo devo chiedere, se c'era ancora. Lo vedo spesso fatto di Franco, mi saluto sempre, Patonello, poi non mi saluto, dico, oh, ciao Fra. Fa i semafori ormai lui. Sarebbe bello, sai, se non li usano, se ce l'avremmo regalati, no, ce l'avremmo un po' spartiti, gli apparati. Anzi, a me se entrano mi fa piacere, che c'è. Posso chiedere a Franco, se vuole entrare, 5 minuti, 10 minuti, mi fa piacere, diciamo, se però si parla una volta come si leva, da paesane. C'è anche un ex carabiniere che stava lì vicino al coso, a De Martis. Lo sta pensando, quindi se riesco a far entrare tutti i cibi di usi, io almeno ti ripeto, siete tranquilli, fate una ruota per dire siete 4-5, almeno parlate anche tra voi e Vittor Vamp, non è che vi pensiate da voi, da paesani, grazie a Dio, li conoscete tutti. Attenzione Antonello, di usi, cambio. Avanti, chi chiama Barracuda con la buonasera, in compagnia del signor Pomponio. Antonello, Barracuda, Leoncino sono, guarda come ti sto arrivando. Sempre sul segnale qua, Santiago 6, una radio di 4, sempre con quel rumorino da parte mia. E campa. Ecco, ma Antonello, ma sempre faccio ti arrivo io, boh, non ho capito io, boh. Cambio apparato e ti arrivo basso, boh. Allora, si sente benissimo, io ti sento bene. Il mio apparato ci sono questo signore, Santiago 6, Radio 4. Però ripeto, da parte mia, ogni volta, con tuo modo, Leoncino, fai sempre questo rumore qua, guarda, cerco un pochettino di evitarlo, no? Fa così, tu parli e mentre moduli, ti schiaccia la portata e fa così. Questo rumore qua fa. Oh, non lo so. Antonello Pompogno, tu ne senti di questo rumore? La verità lo sento io. Quello rumore lo sento benissimo io, Giuseppe. Non gli avrei anche detto. E stava tu si dico con quel zio, Qua se non costa niente, non so cosa posso fare. Aspetta un attimo, eh. Io prendo il telefono, ok? E tu fai un passaggio mentre parli, è un passaggio che c'è la portante muta, non parlo, e ti faccio sentire questo rumorino che c'hai, perché quando molli sento leggermente il rumore del corrente, quello minimo. Quando tu invece schiacci la portante, cambia questo rumore di sottofondo, da parte mia, lo sento sempre, da altre persone no, solo tu ce l'hai. Non lo so perché stranamente io riesco a tirarlo fuori, non lo so. Però per dire, Antonio non ce l'ha nessun altro, durante la modulazione, lo sento solo a te. Vabbè dai, prova a fare questo passaggio, faccio questo passaggio, dai. E aspetta, per il telefono memorizzo, quando ti dico vai e poi te lo faccio sentire il microfono, senti questo rumore che sento io, aspetta un attimo, Allora Giuseppe, cosa vuoi che registra un pochettino? Ora, prova, controllo, se controlli qua il canale 10, cambio. Dunque, questo zio la pensavo non lo sento, di qua a casa. Forse vedo sempre a pasto, non lo so, con 2009, comunque non sento con c'è la giornata. A meno che tu sei più forte di me di segnali di radio e che appare questa roba della giornata, non so come sia la cosa. Ebbene, Antonello, Barracuda. Che apparecchio stai usando, Giuseppe? questo è uno, e adesso non c'ho la pila, sono capo di letto, la marca, aspetta, questa è Vakinton. Cos'è Vakinton? Vaking 2? Vakinton. E se marca è questa qui? Lo devi solo vedere, Antonè. Cos'è un 40 canali? Cos'è un 120 canali? Che parecchio è? 40 canali, diciamo, normale, capito, però all'amministratore a corrente, capito? Ah, 220. Antonè. Ciao, Cla, buonasera. Sentito? Stasera ho sentito, verso le prima delle 10. No, pure, domandami quelli che ci sto lavando la computer. Sto ascoltando già poco fa, non mi sento nessuno, io sono a computer, sto facendo le relazioni biologici, che metà dei servizi della radio. Claudio, buonasera. Ciao. Scendo da Cesareo, diceva quello, e quindi adesso vedremo. Ho girato vendetta, quella adesso me ne metto come una volta, mi prendo il lineare rosso e poi si vedrà. Non può andare avanti così a primo corso, la verità. Non mi sta bene. Quando mi devo vedere, perché ancora portate c'era? No, dopo che ci sono quello cosa a te, fatto spiegare a Antonio a Fotentini. Sono con l'attacco dei soggetti. No, ci mancherebbe, no, è successo una cosa che non mi aveva mai staccato la vita. E quindi me l'ho segnata e basta. Sai come sono fatto io? Sono come facevo con l'albero. Tutti i dinatori, a me manco praticavo che passa, sono già dimenticato io. Non voglio che farò i matti, le macchine rimani serate in manicomio, e vai. Andiamo avanti per la nostra strada, boh, a tutti i dini. A me manco però mi ha collegato, quindi. Non mi interessa proprio, mi scivola come dice qualcuno, capito? Io non sto cercando nessuno, voglio essere cercato. Se non per cambiare la guardente, avanti break. Buonasera a tutti, Fabrizio da questa parte, ciao Walter, ciao a tutti. Mi sembra di aver sentito Giuseppe, Leoncino, Ossi e compagnia cantante, Pomponio mi sembra. Chi è Walter? No, scusa, ho sbagliato, ti ho confuso, scusami. Buonasera Fabrizio, occhi di gatto, però lo sparviero. Ok, ma no, bene a me. Pensa positivo, capito? Se le cose succedono in giro, quando le esti è giro, c'è guascia. Ma tutti lì. Vai avanti per la tua strada, è fregata, sempre a te alta. Non pensare mai agli altri, pensa sempre a te stesso. Che vedrai che vivi molto, molto più tranquillo. Ok, avanti a tua nuova guida, riprendi. Ehi, sto cercando la registrazione che ho fatto, il telefono appena lo sbatto al muro, guarda. Adesso sto continuando a cercare la peluncina, riesco a trovare la modulazione, la registrazione che ho fatto. Comunque, buonasera, non mi hai sentito, al nuovo arrivato. Ok, ti ringrazio dei saluti. Ascolta, io faccio una prova, voglio provare un portatile. L'altro giorno mi ha sentito Claudio, era l'unico che mi sentiva. Siccome adesso sono a Sassari, salgo un attimino, salvesco in terrazzo e provo a fare un paio di chiamate, magari mi date un controllino. Non c'è problema, comunque fatto sta il giorno che tu stavi modulando da Trentino. Se non ricordo male, ti sentivo anch'io benissimo qua a Ossie. Comunque fai la prova, non c'è problema. Penso sempre che lo provo. Il problema è che io, l'unico che riuscivo a sentire era Claudio, ma lo trovo fuori basso basso. È quello che mi sembra strano, come gli dicevo l'altro giorno a Claudio, quello che mi sembra strano. Che scendere col portatile in contrario, se tu ascolti ma ti viene male arrivare per il problema dell'antennino. Anche quello è vero, comunque fa questa prova, dai, così siamo più vicini tra uno e l'altro e senza problemi ti diamo controllo, vai tranquillo. Ok, un minuto. Attentino, questo portatile lo sentivo benissimo io. L'attentino, questo portatile arrivava benissimo, Santiago 3, radio 5 perfetta, però lui dice che mi sentiva basso, non lo saggio. Sentiamo adesso cosa se esce bene. Se la ricezione passa anche a Sassari, vuol dire c'ha problemi di ricezione col portatile. Sicuramente. Beh sì, alla fine sì. Io se guardi, se non ricordo male, e a me arrivavano Santiago 5 alla radio di 3, il giorno che era a Trentino, è la verità. Sì, era piccolina la formulazione, però abbastanza comprensibile, poi si cambia sicuramente qualche piccolo problema all'apparato. Penso che sia abbastanza risolvibile. Scusami Rinci, ma non riesco a trovare la registrazione, prima o poi ce la trovo. Attenzione per la cura. Lucino, questa parte sempre Fabrizio. Niente, lo sto provando questo portatile adesso, io vi ascolto più o meno tutti bene, ma sono una zona alta, sono in terrazzino, dai, se qualcuno mi dà un controllo. 719 è qua. Qua invece sentiamo sì una radio di 4 da quel Paussi. Però vedo che la partita del segnale, quando tieni premuto il modulo, aumenta sempre. Avanto. Buonasera a tutta la ruota. Io fa che? Buonasera a tutta la ruota. Ma se neanche lei mi ha sentito. No, perché buonasera. Ciao Claudio, buonasera, mi sentito. Ah, ecco qua, guarda, adesso io qua dovrei avere, fammi fare un paio di prove così tutti quanti date un'occhiatina. Allora, la mia zona più o meno la sapete, di modulazione, sono zona alta, perché è alta la zona, sono anche fuori dal terrazzo, quinto piano praticamente, e quindi è alta. Adesso sto uscendo, adesso provo ad abbassare la potenza, ditemi se cambia qualche cosa. Ecco, così forse dovrebbe essere cambiato qualcosa. Avanti. Eia, la parte mia prima è Santiago 7, radio 5. Adesso sei sceso, radio 5, Santiago di 3. A me 9 e 5 di segnale, radio 5 lo stesso però, tutti e due così. Anche qua non ha cambiato niente, sentiamo ancora di vicino. Avanti perché? Sì, tutto a posto. Io trovo questa differenza. Ecco, non lo so. Gli chiedo un paio di informazioni. Claudio, poi ti chiedo un paio di informazioni se sempre su questo portatile, se me le sai dare, dai. Non so, che portatile. Ma non per il portatile, per lo stesso problema che c'era l'altro giorno. Se per te, secondo te, per la tua esperienza, è normale quello che succedeva. Io per quella mia ho sempre fatto il contrario, praticamente con il portatile senti e riesci ad arrivare più basso, diciamo, del segnale che ricevi. Invece in questo caso con te, per esempio, anche con gli altri, mi avete detto, praticamente avevo un segnale più alto in uscita, ma ricevevo più basso con tutti quanti. Sul portatile è un'antenna così telescopica, di quelle full optional del portatile stesso, secondo la direzione che sei, chiaramente la ricezione non è uguale alla trasmissione, senza ombra di dubbio, evidentemente eri un po' ostacolato, quindi la trasmissione passa, ma la ricezione magari era un po' diversa, però io da Trentino ti sentivo senza nessun problema, tranquillamente, alla grande, capito, o Fabri. E tu magari sentivi un po' diverso, ma senza problemi comunque, dai. Ti ricordo che le antenne sono delle antenne omnidirezionali, quindi se magari ti spostavi di qualche metro avevi la ricezione superiore. Però va bene, che aspetta la stintina o non portatile così. Io ti ascoltavo bene. Avanti Antonio. Antone. Dimmi. Antone lo Bonponio. Riprendi, dimmi. Stavo parlando di quei baracchi antichi, quelli su canale 14. Forse su 14 e su 13. Di quelli da 10.000 infatti. La segnata un vatra. Portatili. Io vabbè, senta che quello già ti sento, io non ci sono problemi. Siamo vicini. Ma Giuseppe che fine ha fatto? Ha cambiato la radio da? Non lo so. Ma che la tia doca comuni? Non lo so. Ma non preso, ti ha chiamato? Non lo so. Ma poi, doca tia vai dare, aiuto. Non è che cosa? Che cosa vuoi dire? te mi stavo guardando un pezzo di quelle partite che ci sono i 45 minuti. E niente, poi mi sono stufato. Guardate va. Che sta dicendo? Il torneo team? Ehi. Che sta dicendo? La Juve, via. No, l'Inter ha vinto, c'è il riposo, sta giocando Juventus e Milan. Milan sta vincendo, ha segnato Cassano. Guarda, non te il culo. E l'Inter come ha giocato? Con la Juve ha vinto. Sì, con la Juve, a rigore ha vinto. C'è sempre il rigore, vinci. Perché c'erano rigori si bravi. Solo il rigore può vinci, ma non è tu. Due palle ha pegato la Juventus. Sarebbe un derby. Che culo che ha avuto, vabbè, riprendi Fabri. Riprendo io, niente, adesso sono stazione base. Vabbè, comunque, poi quando ci conosceremo in verticale, tanto quando ritiro l'apparecchio vorrà trovare potrei per fare quella modifica, ti dico esattamente da dove stavo modulando, vicino stintino o un po' più stintino, perché magari qua viene un pochettino male e ti spiegherò. E ti ripeto, non avevo nessun ostacolo, proprio ostacoli zero, zona altissima, che più alta non ce n'è, e quindi niente, era così là. Ho capito, conosco perfettamente Tentino, quindi sicuramente è la zona alta di Capo Falcone, va bene. Non proprio, guarda, perché diciamo che non ero proprio istintivo, ero fuori istintivo, diciamo, già ho capito, Tieni conto che io non vedo la Costantino, quindi non ci sono problemi. Ti ascoltavo per quello, però ti ripeto, secondo nella posizione che eri, avevi un'ottima trasmissione, un po' più bassa la ricezione, ma quelle sono cose che succedono con i portati. A volte ti sposti un metro e ricevi molto meglio, capito? Però l'importante è che c'era la trasmissione, perciò a quel punto lì non ti devi preoccupare, funziona tutto ok. Pomponio. Dimmi, sono qua. Riprenditela. Scappa. Antonio Falschetto, cosa mi racconti di buono? Cosa vuoi raccontarti? Cosa vuoi raccontarti? Sempre le solite cose, né più né meno, tutto qua. Tutto qua, K di Roger, vai, se va bene. E tu cosa ci racconti di bello? Niente, di altro. Senta, fanno una sonda, per due giorni, vabbè, sono in ferie, quindi mi annoio, perché altro. La domanda è se non giù a certo studio, come ripeto, un po' che mio compagno di Pio, l'autore, faccio una visita ancora in spagnolo e poi mi resta a casa. Già va bene. Riprendi Claudio e fai sale. Io sono qua, mi è finito di stampare la roba. Ho registrato un dito, poi domani mattina me li asseguro tutti, mese per mese. E gli consegno tutta la gira gioco. Ieri, oggi. Ieri sera, oggi. E vabbè. Ma Giuseppe che se n'è andato, che oggi tu la radio raccoppare. Stavite lui sempre, la radio bella, la radio bella, la radio bella. E stavo uscendo meglio stasera, cosa devo dire? Sta uscendo bene adesso. Segnale buono, la radio raccoppare. Andava molto meglio stasera la radio. Non so cosa sta usando, boh, si è cambiato il microfono, radio. Gabba. Però ho capito per la clima, è una pietra sotto le base, non mi dicono che marca sia, quindi... La verità stavo uscendo leggermente più bassa, non di molto, ma comunque stavo uscendo lo stesso. Quella passa il segnale, la radio era cupa, non era bella chiara, stasera invece lo sentivo bello chiaro. Poi non so se è casa sua o se è mai. Infatti gli ho detto, come leggo, come vedo, io parlo. Poi devo dire che uno se scende male, devi scende bene. Se la radio è cupa, c'è niente da fare. Bisogna saperle le cose. Ha detto grazie, tu prego. Se vuoi dire. Se bisogna dire sempre stiamo uscendo bene, allora diciamo sempre stiamo uscendo. cosa c'è acceso? Il televisore lì, mentre muovono oppure gli altri apparati? È tutto spento, il televisore è a 10 metri di distanza. Oh, sembra lì attaccato a te. No, non lo so. Già hai visto che sono le radio dove sono? C'è la porta aperta, sono un muoio al caldo. Qua c'è una lottita, capito? Ah, ecco. E niente, volevo dire a Pomponio che qualche giorno ci organizziamo a Ossisi, tu sai dove abitano i CB ossesi, ci facciamo un giro, se li conosci vediamo un po' cosa ne esce fuori, se ne è voglia, un fine settimana senza impegni, entrambi. Quando vuoi, ricordati che c'erano tutti e quattro rame, tanto che anche in partenza, perché i CB di Ossi che conosci tu, io, grazie a Dio, Andrea, Gianni, poi chi c'era di Ossi? Franco, mi ero sempre andavamo al parlo al circolo qua, quindi c'era il tutto da quattro zampe, lo sto dicendo io, perché Ossi e mio parecchi amici, ma un bel, perché l'ho frequentata un bel tempo fa, e quindi so com'è, quando entri in un'altra parte, anche quello non esce fuori così facilmente. Un giro uno, un giro l'altro, ti nasce a peli. Dimmi. Oh, sì, dimmi, Cla. Ma il mio dirigente lo conosci tu, Dioci? Il tuo dirigente? Sinceramente, la verità, non so neanche chi sia. E chi sarà proporzionato al padre fratello, l'angelo? Vabbè, il nome e il cognome non si fa. Via Europa. E a chi lo sei? Ma gli occhiamo ci hai mandato. Eia, sì. Via Europa, di fronte alle scuole medie di Sospianos. Esatto, fratello mio dirigente. Mastro Lindo, lo conosci? Eia, non sapevo che era il tuo dirigente, però. Ehi, stato dirigente del personale per tanti anni. Adesso in amministrazione. Vittorio, siamo proprio a farti le chiacchiere a vedere. Ho capito, già, non sapevo che lui, diciamo, era in quel reparto lì, ma non l'avrei mai immaginato. Siamo proprio a farti le chiacchiere con Vittorio, per la multinazionale, per la casa madre no, bisogna fare il concorso, ma per la multinazionale so che ci può essere qualche spazietto. Come che ti dica, grazie. Ma se conosci l'angelo, il ministro di Vittorio, ne parli prima con l'angelo, poi ti fai due chiacchiere con Vittorio. Io se lo vedo, non ci sono problemi. Dimmi tu come comportarmi, dimmi tu. E io ne parliamo a te, chiaro. Va bene, ti ringrazio. Non ce l'ho, ti giuro, non neanche lo sapevo, perché io ho la verità. Sì, sono di Ossi, tutto quello che vuoi, però non sono di quei tipi per carattere che sta lì come si usa nei paesi a sapere, come si usa in paese a dire le troddie degli altri, no, io sto a casa mia e non sto lì a sempre allo stesso, sto parlando a fiagare cosa fa uno, cosa fa l'altro, e ti giuro non l'avrei mai immaginato, non mi sarebbe mai venuto in mente la verità. Sono fatto così io. Vabbè, te l'ho detto, penso mi sono ricordato di Ossi. Capito? L'ultimo che hanno preso è lo stesso di Ossi. Ci rimane a tutti lui, quindi, per quello che sto dicendo. Quindi se vai l'angelo, ne parli. Puoi dire anche che te l'ho detto io, non c'è un problema. Mi senti un po', per la multinazionale, le dici. La depurazione, qualche spazietto c'è ancora, quindi se riesci a intrufolarti non ci sono problemi, poi già ci parlo io con Vittorio. Perfetto, mi avvicino, mi posso avvicinare a casa sua, Vittorio, sì, giustamente non faccio il tuo nome, chiedo direttamente e basta. Vedi anche che te l'ho accennato io, siamo in buonissimi rapporti. Sono al telefono e dico guarda deve passare il tuo paese a trovarti, vedi di di fare qualcosa, siamo Mulder oppure decidiamo tu. È un mio dirigente, è stato mio dirigente, praticamente è responsabile personale, capito? Poi è stato spostato di servizio adesso in amministrazione, però abbiamo sempre buoni contatti con Vittorio, nessun problema. Ci diamo del tuo, abbiamo sempre collaborato assieme, lui da una parte e dall'altra. Perciò se capite, vediamo di muovere qualcosa. È perfetto, allora è il giorno che mi avvicino, dai. E cosa ne so, faccio, ti chiamo direttamente, vedo un po' di coincidere la cosa, adesso vedo un po' se ce la faccio questa settimana, vai, qui c'è chi ha tempo non aspetta il tempo, non mi vale vero, è sempre un altro piccolo lumicino che si è acceso, va benissimo, cerco di organizzare questa settimana, poi ti faccio sapere, tanto poi penso fine settimana già dovrebbe essere a casa sua lui, dunque prima di andare te lo dico direttamente a te, te lo faccio presente. È un lavoro, lui sabato rientro e sta facendo a me a trovarlo più fretta possibile, ti ho detto che c'è qualche spartietto adesso, capito? Portate metterci il piede dentro, poi già ci muoviamo diversamente. C'è qualche spartietto adesso, so che, perché hanno chiesto anche a me, so che c'è qualche spartietto, quindi dato una mossa e scelta di lui sono ricevuto, domani mi sto organizzando, anzi mi organizzo già da adesso, aspetta un attimo che devo riflettere un attimino, sentiamo dopo, dai. No, dai, facciamo girare, io girate. Girate la ruota, allora, come sa va? Come sa va io, poi, se vuole rimanere le relazioni ai bilanci, se no mi danno le ferie, tu. Avevamo portato tutta la roba a casa, oggi mi ho acceso tre volte, questa è la terza volta che accendo il baracchino e l'ho tenuto spento, se no non combinavo nulla, però adesso è finito. Solo a stampare le copertine e basta, e poi così domani ci porto tutto, devo trascrivere e basta, e quindi niente, chiude a vedendo CD, va bene, ma io a chi tocca, Fabrizio, riprendi. Sì, riprendo io, vi sto ascoltando, ma mi sembra che oggi ci sono pochi argomenti in ruota. Se non c'è lo spunto, no, io si possa, io ti ripeto, sono fuso, sono tra essere a casa, a quest'ora sono già le 11, non è che gli argomenti saltano così dalla mente, però non ci sono problemi, se possiamo rispondere rispondiamo. Io mi sono qua che al PC cercando, così indagando un pochettino, che devo cambiare la macchina che ho venduta, la mia, e sto cercando un attimino cosa offre il mercato, un pochettino cercando caratteristiche e vedendo un attimino, Ma tutto in fase di cambio sia, lei anch'io ne stavo con la mia moglie oggi, io ne ho due da versare addirittura, ne ho due da versare e prendermi una un po' più sincera, diciamo. Ho sempre camminato con macchine grosse, poi da quando ho la macchina in servizio alla fine non ne facevo più niente, però già la sabato domenica e allora mi sono venduto l'ultima del Volvo, l'Audi l'avevo versata per il Volvo, adesso mi sta venendo nuovamente la mania della macchina e stiamo decidendo cosa fare, però no, mi attacco a internet, io conosco tutte le concessionarie, non c'è problema, non è trovare a me. Ci sono sempre servito da lui, vediamo se facciamo come fustiamo le lasce, due in uno, gliene do due, ne prendo una. Guarda, io non per me, che conosco bene il figlio, però io l'ultima che ho comprato, io le cambio ogni 4 anni, no? Quindi l'ho venduta, poi la vendo a privati, comunque la vendo e poi vado senza usato che compro meglio. Se ti muovi un attimino, per me a livello Europa, il consiglio è che io nel 2001 il 320 l'ho preso, ho risparmiato, era in lira ancora, 12 milioni. serve una macchina per spostamenti e che la usi anche mia moglie, quindi sono mezzo intenzionato su una bella classe A. Ormai non sei sicuro, ma se viaggi tranquillo. Ho fatto la nuova, il 180, che è bellissima, e neanche a ritardi perché sono già andato con Massimo e dove si nascere i figli di Piero, dove nascere, che ho iniziato a Polo Torres, Piero Salvatore Michelino, e il Giamstet, vabbè Michelino è arrivato dopo perché era sempre in Germania. Piero Luciano è Gian Salvatore, non è iniziato a Polotore, si via Sassari, quindi lui con l'officina mi dava 5.000 lire a settimana, figurati. Conosco bene, conosco bene, sono sempre servito a loro, perciò da Luciano ho preso il volo per un 40, era appena uscito, poi ho fatto un 50. Station non le prendo più, ti ripeto, perché è troppo grande, mia moglie lo distrugge, poi mi cazzo. E allora un bello monovolume, già adesso vado a trovare questi giorni, così ti dico se me ne ritira due, mi metto qua a mezzo le balle, perché una è sempre ferma dentro, ho anche detto l'assicurazione, e mia moglie sta usando l'altra. Due smart, cioè, e poi una Peugeot bianca che mi sono ritirato dall'azienda perché la stavano versando, ma la sono ritirata io, è nuova, un 206 HD, è un sinuro della macchina, però non ne faccio niente neanche di quella, quindi vediamo, va bene, perché riprenditela, allora quella matita mi leva. Cosa ne posso? Lui no, per il momento nada de nada, per il momento non si fa niente. Scusa Claudio se ti disturbo. Dimmi. Volevo chiedere a questo Vittorio, non so se hai capito, è un tipo grosso, alto, bello paputello che ha una macchina diciamo familiare, di quelle là con un po' di posti. Se ti ha detto Mastro Lindo, fratello di Angelo, lo chiamiamo Mastro Lindo, no? È 2 metri per 1,50, cioè è lui, Vittorio. Perfetto, domani mi sto avvicinando a casa sua, perché lui abita neanche 100 metri da casa. È sempre così. Vai a trovarlo domani, va. Capito? Vai a trovarlo e diglielo se c'è possibilità con la multinazionale, dite proprio così, capito? E poi mi fai sapere cosa dice, già lo telefono io. Perfetto, io domani come rientro dal lavoro e invece direttamente a casa sua, vedo un po' di rintracciare nel caso della soletta la moglie, a quale ora viene, se non è vicino, poi ti faccio sapere, va bene. Ti ringrazio per l'informazione, là adesso rimango un po' in trepidazione. Vabbè, io vi saluto e mi preparo per domani, a proposito, grazie per il momento. Grazie a me, non c'è neanche ringraziamenti. Si dà sempre l'input per fare qualcosa di buono, poi ci si mette in contatto direttamente, dai. Tu muoviti dalla tua parte e poi io mi muovo dalla mia, con Vittorio. Buon come, si credi. Ecco, io riprendo e me ne vado andando adesso. Buona. Stiamo domani al limite, se entra per un attimo dopo pranzo, mi addormirò. Sto domani attento a dove sto, poi non siamo scelte, quindi. Mi addormirò. Ci stiamo domani, grazie a tutti. Buonanotte, buon tutto, buon proseguimento, quello che è. A domani. Fatemi bene. Ciao Antonio, domani ci sentiamo, stammi bene, alle prossime, avanti Falche. Ehi, siamo andati alla corte, ma Torello, riusci, siamo andati alla pompogna, un 144 non l'ho fatto, e ci si ascolta tutta la mare. Ok, vai, grazie. sentiamo domani. Ciao, anche Antonello Barracuda. Avanti Fabri. Ciao Antonio, buonanotte. Ciao anche lì all'amico di Ossi. E buonanotte a tutti, dai. Avanti, chi vuole entrare, pochi discorsi, pochi argomenti. Io non vedo questa ora, trovate sotto giorno a casa facendo, tu mi sei entrato, forse c'è già l'Antonio. Via. Oh, non c'è. E quindi niente. C'era anche Giuseppe Doncino, poi sparito. Pensavo sia andato a cambiare la radio, ma invece è sparito. No, rientrerà. Vabbè, avanti, qualche stipendio. Ho sentito già parole, non stavo per chiedere se è entrato Antonio Grotte, ma a quanto pare non si sente. E deve essere fuori a cena in qualche posto, cappa di roccia. E così, e beh, è arrivata la sette ore, poi si va a mamma, giustamente. Cappa, cappa. Vabbè, dai. Vi saluto anch'io allora. Fabri, lo portatile per me l'ultimo, va benissimo. Visto i risultati di Sentino, visto i risultati qua di Sassa e Sinofre. Perciò va alla grande, va più che bene. Scusate, va, gioco buio, dai. Ci aggiorniamo domani, buon proseguo, vi ascolto un altro pochino, metto a posto il corpo e mi corco. Riprendi tu Fabrizio, dai. Ciao Anto, ci sentiamo domani. Ciao anche Giuseppe, si sta ascoltando. Io sono abituato a dire la verità, un po' arrabbiato. Per me la radio era cupa, quindi andavi meglio prima. Vedi tu cosa puoi fare. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Avanti Fabri. Ciao Claudio, buonanotte, a domani, alle prossime. E avanti, l'amico anche io a quest'ora, non riesco più a ricordare i nomi. Cappa dai, salutoni Claudio, ci sei già morto domani. Diciamo che Giuseppe sta ascoltando, diciamo che te Fabrizio, dai, anche per me, QRT, dai, ci si aggiorna tutta domani, dai, perché tu chiudere la trasmissione.